Il terzo anello, ad alta voce. Il processo, di Franz Kafka. Quando fu vestito di tutto punto, dovette, sfiorando Willem, attraversare l'attigua stanza vuota e raggiungere la camera successiva, che aveva la porta con le due imposte già aperte. K sapeva bene che la camera da qualche tempo era occupata da una certa signorina Burstner, una datilografa che andava al lavoro la mattina presto. Rientrava tardi e non aveva scambiato con K molto più del saluto. Il comodino adesso era stato allontanato dal letto e spinto nel centro della camera per servire come banco d'udienza, e l'ispettore sedeva dietro di esso. Aveva accavallato le gambe e appoggiato un braccio sulla spalliera della seggiola. In un angolo della camera erano tre giovani che guardavano le fotografie della signorina Burstner, fissate a una stuoia appesa al muro. Josef K? Chiese l'ispettore, forse solo per richiamare su di sé lo sguardo distratto di K. Questi annuì. Gli avvenimenti di stamattina l'hanno molto stupita? Chiese l'ispettore. Certo, disse K, sentendosi invadere dal piacere di trovarsi finalmente di fronte a una persona ragionevole e di poter parlare con lei della sua questione. Certo, sono stupito, ma non sono poi molto stupito. Non molto stupito? Chiese l'ispettore e pose la candela al centro del comodino, raggruppandole intorno gli altri oggetti. Forse mi fraintende, si affrettò a notare K. Io credo... Qui K si interruppe, guardandosi intorno in cerca di una seggiola. «Posso sedermi?» chiese. «Di solito non si fa», rispose l'ispettore. «Io credo», riprese subito K, «di essere sì molto stupito, ma quando si è al mondo da 30 anni e ci si è dovuti fare largo da soli, come è successo a me, siamo induriti contro le sorprese e non ne facciamo più gran caso, in particolare di quella di oggi». «D'altra parte, però», riprese K, rivolgendosi a tutti, e avrebbe attirato volentieri l'attenzione anche dei tre vicini alle fotografie, «d'altra parte, però, è vero che la questione non può avere molta importanza. Desumo questo dal fatto che io sono accusato, ma non posso trovare la più piccola colpa per la quale mi si potrebbe accusare. Ma neppure questo è l'essenziale. La cosa che conta è da chi sono accusato. Quale autorità istruisce il processo? Loro sono dei funzionari? Nessuno ha un uniforme, a meno che il suo abito... È... E qui si rivolse a Franz. Non si voglia chiamare un uniforme, ma è piuttosto un abito da viaggio. Esigo chiarezza su tali quesiti e sono sicuro che dopo questo chiarimento potremo congedarci nel modo più cordiale. L'ispettore posò con energia la scatola di fiammiferi sul comodino. Lei commette un grosso errore, disse. I signori qui presenti ed io abbiamo un'importanza minima in questa faccenda. Addirittura non ne sappiamo quasi nulla. Anche se indossassimo uniformi regolarissime, la sua questione non peggiorerebbe affatto. Non posso neppure dirle che è accusato. O meglio, non so se lei lo è. Lei è in arresto, questo è vero. Di più non so. Forse le guardie hanno discorso di qualche altra cosa, ma si tratta solo di chiacchiere. Ma se ora non rispondo alle sue domande, posso tuttavia darle un consiglio. Pensi meno a noi e a quello che le succederà. Pensi di più a sé e non faccia tanto chiasso protestando la sua innocenza. Questo sciupa l'impressione non proprio negativa che lei per il resto produce. K sbarrò gli occhi sull'ispettore. Si lasciava fare la lezione da una persona forse più giovane di lui? Veniva punito per la sua franchezza con una reprimenda e non gli si diceva nulla sulle ragioni del suo arresto e su chi l'aveva ordinato. Lo prese una certa agitazione. Cominciò a camminare in su e in giù senza che nessuno glielo impedisse. Spinse indietro i polsini, si palpò il torace, si ravviò i capelli, passò davanti ai tre dicendo: «È assurdo». Al che quelli si volsero verso di lui e lo fissarono partecipi ma gravi, e infine si arrestò di nuovo davanti al comodino dell'ispettore. Il procuratore Asterer è un mio buon amico, disse. Posso telefonargli? Certo, disse l'ispettore. Ma non so che senso questo potrebbe avere, a meno che lei non voglia trattare con lui una questione privata. Che senso? Gridò K, più sorpreso che irritato. Ma chi è lei? Lei parla di senso e si comporta nella maniera più insensata che ci sia. Non c'è da far piangere i sassi? Questi uomini mi hanno prima aggredito e adesso se ne stanno seduti o in piedi qui in giro e mi fanno fare al loro cospetto alta accademia. Che senso avrebbe telefonare a un procuratore se, come si pretende, sono in arresto? Bene, non telefonerò. Ma sì, disse l'ispettore e con la mano accennò verso l'anticamera, dove era il telefono. La prego, telefoni. No, non voglio più, disse K. E andò alla finestra. Di fronte la compagnia era ancora alla finestra. E solo adesso che K si avvicinava alla finestra, sembrava un po' disturbata nell'agio con cui seguiva la scena. I due vecchi fecero per alzarsi, ma l'uomo alle loro spalle li calmò. Abbiamo anche spettatori da quella parte, gridò K all'ispettore, puntando l'indice verso l'esterno. Via di là! Gridò poi di là dalla strada. I tre indietreggiarono subito di qualche passo. I due vecchi finirono addirittura dietro l'uomo, che li copriva con il suo vasto corpo, e a giudicare dai movimenti della sua bocca diceva qualche cosa che la distanza rendeva incomprensibile. Non scomparvero del tutto, ma sembravano aspettare il momento per riavvicinarsi inosservati alla finestra. Indiscreti, screanzati, disse K nel voltarsi verso la camera. L'ispettore parve in un certo qual modo d'accordo, come K credette di capire con un'occhiata intralice. C'era silenzio, come in un ufficio dimenticato. Ebbene, signori, gridò K, e fu per un momento come se li portasse tutti sulle spalle. A giudicare dal loro aspetto, la mia questione dovrebbe essere chiusa. Sono d'avviso che la cosa migliore sia non pensare più alla legittimità o non legittimità del loro modo di agire, e chiudere pacificamente la cosa con una stretta di mano. Se anche loro sono del mio parere... E si avvicinò al comodino dell'ispettore porgendogli la mano. L'ispettore alzò gli occhi, si morse le labbra e guardò la mano tesa di K. K continuava a credere che l'avrebbe stretta. Quello invece si alzò, prese un cappello duro, tondo, posato sul letto della signorina Brustner e se lo mise in testa adagio, con entrambe le mani, come si fa quando si prova un cappello nuovo. «Come le sembra tutto semplice?» disse a K. «Lei crede che dovremmo chiudere pacificamente la cosa?» «No, no, proprio no, sebbene con questo non voglia affatto dire che lei deve disperare.» «No, e perché? Lei è solo in arresto, niente di più. Questo è quanto dovevo comunicarle. L'ho fatto, e ho anche visto come lei l'ha presa. Con ciò basta per oggi, e congediamoci pure per il momento. Lei ora vorrà certo andare in banca.» «In banca?» chiese K. «Pensavo di essere in arresto. Come posso andare in banca se sono in arresto?» «Ho capito», disse l'ispettore, che era già vicino alla porta. «Lei mi ha frainteso. Lei è in arresto, certo, ma la cosa non deve impedirle di svolgere la sua professione. Non deve neppure sentire impedimenti in quelle che sono le sue abitudini.» «Allora lo stato di arresto non è tanto male», disse K, avvicinandosi all'ispettore. «Non ho mai inteso dire altro», fece quello. «Ma allora la notifica dell'arresto non era poi così necessaria?» disse K, e si avvicinò ancora di più. Anche gli altri si erano avvicinati. Adesso erano tutti raccolti in uno spazio ristretto, vicino alla porta. «Era mio dovere», disse l'ispettore. «Un dovere stupido», disse K, inflessibile. «Può darsi», rispose l'ispettore. «Ma non perdiamo tempo con questi discorsi. Pensavo che volesse andare in banca. Visto che sta tanto attento ad ogni parola, aggiungo, per me non la costringo ad andare in banca. Pensavo soltanto che volesse andarci lei. E per facilitarle la cosa e fare passare il più possibile inosservato il suo arrivo in banca, le ho tenuto qui a disposizione questi tre signori, suoi colleghi.» Thank you. esclamò Kappa fissando stupito i tre. Questi tre giovani esangui, insignificanti, che ricordava solo come gruppo accanto alle fotografie, erano davvero impiegati della sua banca, non colleghi. Questo era dire troppo e rivelava una lacuna nell'onniscienza dell'ispettore, ma impiegati subalterni della banca erano comunque. Come aveva fatto Kappa a non accorgersene? Quanto lo avevano dovuto occupare l'ispettore e le guardie perché non riconoscesse quei tre? Il rigido Rabensteiner, con le mani sempre in agitazione, il biondo Kullik, con gli occhi infossati, Kaminer, con il suo sorriso insopportabile, dovuto ad un tic cronico. «Buongiorno», disse Kappa, dopo qualche istante, porgendo la mano ai tre che si inchinavano compiti. «Non li ho neppure riconosciuti. Allora, adesso andiamo al lavoro, no?» I tre annuirono ridendo e pieni di premura, come se avessero atteso per tutto il tempo che Kappa avesse bisogno solo del suo cappello rimasto nella camera da letto. Corsero a prenderlo tutti insieme, uno dietro l'altro, rivelando tuttavia così un certo imbarazzo. Kappa, immobile, rimase a guardarli attraverso le due porte aperte. Ultimo era, naturalmente, il flemmatico Rabensteiner, che si era limitato ad iniziare un elegante trotto. Kaminer gli porse il cappello. E Kappa ancora una volta si dovette esplicitamente dire, come del resto spesso aveva dovuto fare in banca, che il sorriso di Kaminer non era intenzionale e che anzi non poteva sorridere quando ne aveva intenzione. In anticamera la signora Grubach, che non sembrava affatto consapevole della propria colpa, aprì la porta d'ingresso a tutta la compagnia e lo sguardo di Kappa scese, come molte altre volte, sino al nastro del suo grembiule, che affondava senza alcuna necessità nel suo corpo possente. In basso Kappa, orologio in mano, si decise a prendere un'automobile per non accrescere inutilmente il ritardo che era già di mezz'ora. Kaminer corse all'angolo per prendere la vettura. Gli altri due cercavano in maniera evidente di distrarre Kappa, quando Kullik, improvvisamente, indicò il portone di fronte, nel quale era appena apparso l'uomo alto con la barbetta rossa che, un po' imbarazzato in un primo momento di mostrarsi in tutta la sua altezza, indietreggiò sino al muro e si appoggiò. I vecchi dovevano essere ancora sulla scala. Kappa si irritò che Kullik richiamasse la sua attenzione sull'uomo che lui stesso aveva già visto, che aveva persino aspettato. «La smettano di guardare da quella parte!» proruppe, senza rendersi conto della singolarità di tale intimazione rivolta a gente libera. Ma non fu necessaria nessuna spiegazione, perché in quel momento arrivò l'automobile. Si sedettero e partirono. Kappa si accorse adesso di non aver notato quando l'ispettore e le guardie si erano allontanati. L'ispettore gli aveva coperto i tre impiegati e adesso, a loro volta, gli impiegati l'ispettore. Il fatto denotava scarsa presenza di spirito e Kappa si propose di stare in seguito più attento al riguardo. Quella primavera, di solito, dopo il lavoro, quando la cosa era ancora possibile, il più delle volte rimaneva in ufficio fino alle 9, Kappa faceva una piccola passeggiata solo o con degli impiegati, per poi andare in una birreria e sedere fino alle 11, insieme con persone quasi sempre più anziane, al tavolo abituale. Ma quest'ordine poteva anche subire cambiamenti. Quando Kappa, per esempio, veniva invitato a una gita in macchina o a cena nella sua villa dal direttore della banca, che apprezzava molto la sua capacità lavorativa e la sua fidatezza. Una volta alla settimana, inoltre, Kappa andava da una ragazza chiamata Elsa, che la notte, fino al mattino avanzato, faceva servizio di cameriera in un'osteria e di giorno riceveva visite solo stando a letto. Quella sera, tuttavia, il giorno era trascorso rapidamente tra un lavoro faticoso e molti auguri per il compleanno, deferenti e cordiali, Kappa volle andare subito a casa. sarebbe potuto andare dritto nella sua camera, ma poiché voleva parlare con la signora Grubach, picchiò subito alla sua porta. Lei sedeva facendo la calza, accanto al tavolo su cui era ancora un mucchio di vecchie calze. K si scusò vagamente di arrivare così tardi, ma la signora Grubach fu molto cordiale e non volle sentire scuse. Lui poteva sempre parlarle, sapeva benissimo di essere il suo pigionante migliore e prediletto. Guardò la signora Grubach con una certa gratitudine. «Perché lavora sino a tanto tardi?» chiese. Sedevano tutti e due accanto al tavolo e K di tanto in tanto affondava una mano nelle calze. «C'è molto da fare», rispose quella. «Di giorno sono presa dai pigionanti. Se voglio tenere in ordine le mie cose mi rimane soltanto la sera. Oggi per giunta le ho dato un lavoro straordinario». «E quale?» chiese l'altra, diventando più animata, il lavoro abbandonato in grembo. «Alludo agli uomini che erano qui stamattina». «Ah», fece lei tornando tranquilla. «Non mi hanno dato un lavoro particolare». K la guardò in silenzio mentre riprendeva la sua calza. «Sembra stupita che io ne parli», pensò. «È come se non le sembrasse bene che io ne parli. Tanto più importante allora che lo faccia. Posso parlarne solo con una donna anziana». «Ma certo che c'è stato lavoro», disse. «Però non si ripeterà». «No, non potrà ripetersi», confermò quella e sorrise a K quasi con malinconia. «Crede davvero?» chiese K. «Sì», rispose quella più piano. «Ma lei anzitutto non deve prendersela troppo. Cosa non succede a questo mondo? Visto che mi parla con tanta confidenza, signor K, le confesserò che ho ascoltato un po' dietro la porta e che le due guardie poi mi hanno raccontato qualche cosa. Si tratta della sua felicità e la faccenda mi sta davvero a cuore più di quanto forse mi convenga. Dopotutto sono soltanto l'affittacamere. Insomma, ho sentito qualche cosa, ma non posso dire che ci fosse niente di particolarmente grave». «No. Lei è in arresto, certo, ma non in arresto come un ladro. Quando uno è in arresto come un ladro è grave, ma il suo arresto mi sembra una cosa da sapienti. Mi scusi se dico una cosa stupida, mi sembra una cosa da sapienti che non capisco, ma che d'altra parte non debbo neppure capire». «Non è affatto stupido quello che ha detto, signora Grubach. Anch'io sono, almeno in parte, del suo parere. Ma giudico tutto l'insieme ancora più severamente di lei, e non lo prendo neppure per qualcosa di sapiente, bensì per un bel nulla. Sono stato aggredito, ecco cosa sono stato. Se appena sveglio, senza confondermi perché Anna non arrivava, mi fossi alzato e incurante di chiunque mi avesse attraversato la strada, fossi venuto da lei, se per quella volta avessi in via eccezionale, per esempio, fatto colazione in cucina, avessi mandato lei a prendermi gli abiti in camera, insomma, se avessi agito con buon senso, non sarebbe successo nient'altro. Tutto sarebbe stato soffocato sul nascere. Ma siamo così poco preparati. In banca, per esempio, sono preparato. Una cosa simile, là, non mi potrebbe accadere. Là ho un usciere personale. Telefono per l'esterno e per l'interno davanti a me, sul tavolo. Arriva gente di continuo, clienti e impiegati. Ma poi, soprattutto là, sono sempre alle prese col lavoro. Quindi presente a me stesso. Mi farebbe quasi piacere se là fossi messo di fronte a un caso del genere. Ma ora è passata. E io non ne volevo neppure più parlare. Volevo sentire solo il suo giudizio. Il giudizio di una donna assennata. E sono molto contento che la pensiamo allo stesso modo. Ma ora deve darmi la mano. Un simile accordo va confermato con una stretta di mano». «Non se la prenda tanto, signor K», disse. Le lacrime nella voce. E naturalmente dimenticò anche la stretta di mano. «Non mi era accorto di prendermela tanto», disse K di colpo stanco, rendendosi conto dell'inutilità di ogni consenso della donna.